bebrayan among neng lati. Sopo sing ora loro ditinggal naliko tresno, ora eling biyen semono. Opo sih kurang kebak tresno jebul.